English Bit di Giulia Crivelli. Charge. Charging coffee lovers for disposable cups could cut use by up to 300 millions. Far pagare agli amanti del caffè per ogni bicchiere di carta farebbe calare le vendite di 300 milioni di sterline. Il Daily Mail riassumeva così una ricerca della Cardiff University riferita al mercato britannico del caffè. Molto diverso da quello italiano, nel Regno Unito, come negli Stati Uniti, il caffè viene servito in bicchieri di carta, usa e getta. Disposable è un aggettivo che viene dal verbo to dispose, regolare, to dispose, disposed, disposed, che significa liberarsi, eliminare. Aggiungendo il suffisso able, si possono costruire molti di questi aggettivi. Lovable significa che si può amare, ad esempio. Disposable vuol dire quindi letteralmente che si può buttare, usa e getta. Ma la parola che ci interessa è charging, gerundio di to charge, regolare, ma anche sostantivo. Il verbo significa far pagare. What did they charge you for the repairs? Quanto ti hanno fatto pagare per la riparazione? Do you think museums should charge for admission? Pensi che i musei dovrebbero far pagare i biglietti d'ingresso? To charge ha però anche altri usi. Several people were arrested, but nobody was charged. Furono arrestate parecchie persone, ma nessuno fu accusato. Opposition MPs charged the minister with neglecting her duty. I parlamentari dell'opposizione, MP sta per Member of Parliament, la S indica il plurale, accusarono il ministro di trascurare i suoi doveri. Poi, naturalmente, to charge significa ricaricare. I need to charge my smartphone. Ho bisogno di mettere in carica il mio smartphone. Tornando al suffisso able, chargeable si traduce con ricaricare, ricaricabile. The shaver is a chargeable model and can be used when traveling. Il rasoio è un modello ricaricabile e può essere usato quando si viaggia. Charger, quindi, è il caricatore. To be in charge vuol dire invece avere la responsabilità di qualcosa. She's in charge of the day-to-day running of the business. Deve occuparsi dei problemi giornalieri della gestione dell'azienda. They left the babysitter in charge of the children. Lasciarono alla babysitter il compito di occuparsi dei bambini, tradurremmo in italiano.